9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 14 gennaio da Oscar Giannino, che subito va alla questione del giorno. È una questione che oggi non trovate più esaminata sui quotidiani di giornata, ma nei giorni scorsi ha suscitato qualche commento, perché in occasione del Consiglio dei Ministri di ieri, dove non ci si è occupati solo di discussioni sulla giustizia e solo di un esame generale che ha indotto il Presidente del Consiglio a riconoscere che per il 2010 non ci sono i margini per un intervento di abbattimento delle aliquote, per il quale invece si mette in cantiere un lavoro pluriennale molto approfondito di revisione dei pilastri dell'ordinamento, come voleva la linea di prudenza di Tremonti. Ma ieri è stato anche adottato un altro provvedimento, e questo altro provvedimento fa slittare il taglio delle poltrone negli enti locali, che era stato adottato dal governo in occasione dell'ultima finanziaria. Ne ricordo i termini generali: era un taglio più o meno del 20% delle poltrone negli enti locali, e nell'assumerne oggi il rinvio lo si estende però anche ai consiglieri provinciali, che però in questo caso, insieme a tutti gli altri, forse verranno toccati nel 2011. Aveva detto con un certo orgoglio il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, di tagliare a regime oltre 32.000 posti di consigliere comunale, provinciale, circoscrizionale e più di 8.000 assessori tra tutti gli enti locali, oltre 10.000 membri di consigli di amministrazione di società partecipate e controllate, di organismi collegati alle amministrazioni. Il taglio, a dire la verità, rappresentava in termini di minor esborso alle spalle del contribuente di un po' di milioni di euro, insomma non era una di quelle voci attraverso cui si dice risaniamo il bilancio, però aveva una sua significativa, più che simbolica, carica agli occhi degli elettori, perché era una manifestazione concreta di come tutti insieme, non solo tenendo le tasse alte e non abbassandole neanche quest'anno con una pressione fiscale, quindi che alla diminuzione del prodotto salirà verso il 46%, al 43,3% dove stava, ma insomma dando la dimostrazione che anche la politica, anche la casta di cui tante volte abbiamo parlato dopo i libri di Rizzo e Stella, era pronta a tagliarsi. Ecco, la decisione è stata quella, poche settimane dopo, rispetto ai voti finali della finanziaria, di dire non se ne fa nulla. E ne abbiamo già parlato una volta, se vi ricordate, con il presidente dell'ANCI Chiamparino, il quale ci aveva fatto rispettosamente ma molto energicamente presente che il governo poteva tagliare quello di cui era competente lui, invece che adottare provvedimenti nell'ultimo mese di esame dei diversi passaggi della finanziaria in Parlamento, provvedimenti a carico degli enti locali senza averli concordati, e quindi c'era un inevitabile problema di competenza rispetto all'adozione di questi tagli. Il governo aveva detto ma no, ma come, parliamone eccetera eccetera, però diamo la misura agli occhi dei cittadini come simbolo condiviso delle nostre responsabilità eccetera eccetera. Temo che, e qui si conclude la mia introduzione, il motivo di questo rinvio sia stato un altro, e io mi chiedo e vi chiedo: possibile mai, non faccio questione di centrodestra o centrosinistra, ma possibile mai che la politica non sia capace di immaginare che annunciare misure di questo tipo, ma averle votate anche, le hanno votate in finanziaria, quando poi dopo sole poche settimane le si smonta e le si rinvia, le si dilaziona e le si annacqua, non produce un effetto ancora peggiore che non annunciarle e non adottarle? Perché ciò che si produce è ulteriore sfiducia, ulteriore distacco, incapacità di poter essere presi sul serio. E tutto ciò, mi chiedo, a proprio poche settimane da una consultazione come quella per le prossime regionali, a cui, come è evidente, tutta la politica di ogni colore guarda con un misto di inquietudine e speranza? Non lo so, questa è la mia banale opinione di osservatore dopo tanti anni, perché la dilazione, il rinvio, la mancata coerenza tra il dire e il fare e l'assunzione sempre domani di una giustificazione temporalmente insuperabile per cui ciò che si era deciso ieri non si può fare, a me sembra una delle peggiori caratteristiche della politica italiana. Però io non voglio darne una caratura morale e vi chiedo di intervenire e di spiegarci ai vostri occhi che cos'è che spiega questo meccanismo, perché ci sarà una ragione profonda che evidentemente a me sfugge. Mi taccio d'ora in poi e faccio il semaforista, ma chiedo ai nostri ospiti per questa prima parte della trasmissione e a chi ci seguirà in tutto il corso della trasmissione invece di darci la loro opinione. E innanzitutto vi presento Nicola Porro, il vice direttore del giornale. Buongiorno Porro. Buongiorno Oscar. Ecco, e nel presentarlo vi invito anche a leggere un articolo che secondo me sulla tragedia di Haiti, che preoccupa tutti, è uno degli articoli che propone un taglio più, secondo me, interessante dell'intera stampa italiana, perché lo troverete sulla prima del giornale di oggi e vi propone come Haiti sia nelle condizioni in cui è tragiche oggi, bisogno dell'aiuto di tutto il mondo, anche perché quando si fa una scelta anticapitalista ci si trova anche di fronte ai guai, come quelli di un grande sisma, nell'impossibilità di poter dare un aiuto ai propri cittadini per la scelta di non mercato che si è fatto. Sono convinto che troveranno molti questa tesi un po' singolare, io l'ho trovata invece molto azzeccata. Ecco Nicola, dal tuo punto di vista, come mai al governo è sfuggito l'effetto di questo autoribaltamento sulla misura che io ho accennato? Tu che impressione hai avuto? Ci hai creduto, non ci hai creduto? Ti sei deluso anche tu, oppure dici no, è una cosa di razionalità ed è giusto comunque averlo fissato nella legislazione, poi concordando con gli enti locali che sentiremo nel corso della trasmissione lo si farà, ma intanto si pone l'obiettivo. Tu che pensi? Io sono molto deluso. Con Cervi abbiamo scritto un libro che si chiama Sprecopoli, in concomitanza con la più famosa Casta, in cui prendevamo analiticamente i numeri di quello che succedeva in Italia e raccontavamo l'incapacità di qualsiasi governo, di destra e sinistra, di chiudere e di ridurre i suoi spazi, il suo ingombro. I motivi che io do per questa scelta del governo, tra l'altro Oscar, ieri ci sono state due marce indietro che per un liberale liberista come me sono state dolorose. La prima è quella sulla riduzione degli spazi della politica e quindi la proroga dei tagli degli enti locali di cui stai parlando tu. La seconda, ovviamente, non ne parliamo oggi, ma è evidente, è quella della proroga della riduzione delle imposte a cui tu facevi accenno prima. Quindi, insomma, ci sono state due retromarce che danno il senso di un governo che ha chiaramente in testa quale dovrebbe essere per lei l'obiettivo per, come posso dire, rispettare la constituency, rispettare il blocco sociale che l'ha votato, ridurre le tasse, ridurre il peso della politica, e poi si trova impantanata e incapace di farlo. La tesi di Chiamparino, che è una tesi legalista, che è una tesi anche perfettamente italiana, perfettamente legittima, cioè come si fa a dire agli enti locali dovete essere sempre più autonomi, dobbiamo dare il federalismo, dovete fare i vostri statuti, dovete autoregolarvi e poi pretendere che sia lo Stato centrale a dettare il loro dimagrimento? Questo dicono ovviamente gli enti locali. Quello che invece dico io in maniera meno sofisticata, ma non vuole neanche essere demagogica, perché su questo poi si fa moltissima demagogia, si dice i politici sono tutti dei fanfaroni, dei ladroni, sono tutti, come posso dire, quella zona grigia del non detto. Beh, io dico però semplicemente il governo deve dare dei segnali, deve dare dei segnali anche forti, e la politica è fatta anche di contrapposizioni. Se io una contrapposizione voglio che ci sia oggi nel paese è quella tra chi ritiene che siano necessari 150.000 eletti negli enti locali, questo è il numero degli eletti tra consigli provinciali, locali, circoscrizionali, comunità montane, e chi ritiene, e io sono uno di questi, che di questi 150.000 si possa arrivare facilmente alla metà, a un quarto, ma non tanto e non solo per risparmiare i 250 milioni che comunque non sono briscole, cioè non sono proprio due lire, ma insomma 250 milioni in tre anni meglio di niente, non solo per risparmiare questo, ma perché l'invadenza della politica fa sì che esistano delle terre come quella calabra in cui c'è un rappresentante eletto della politica ogni 20 abitanti. Questo è un orrore della democrazia, non è una patria della democrazia, è più grave quasi il costo, come dire, politico di questa presenza territoriale degli eletti di quanto lo sia il costo finanziario. Il costo finanziario è importante, certo, ma il dipendere dal politico, il pensare che il mio lavoro non si deve fare in quel momento perché ho un'aspettativa per la politica, il pensare che tutto dipenda dalla politica fa sì che l'Italia sia un paese ingovernabile per troppi eletti. Forse sono un po', come posso dire, oscuro in quello che sto dicendo, ma cerco di non sconfinare, il che è molto facile, nella demagogia più pura, perché la demagogia più pura può dire beh, Calderoli è stato veramente, come posso dire, ha sbagliato di grosso ad annunciarlo e poi a ritirare, a prorogare di un anno. Quello che io dico è più sofisticato, maggioranza e con un blocco sociale che lo elegge, chiaramente percepisce come, non si, come la politica debba ridurre i suoi spazi e non riesce in due anni a farlo, è una misura preoccupante dell'incapacità che qualsiasi esecutivo ha in Italia di portare a termine un programma reale. Questo è una cosa che è dolorosissima, quindi può sfociare nel più pericoloso, secondo me, degli atteggiamenti, cioè nell'atteggiamento dell'antipolitica. Non voto, i politici sono tutti uguali, nessuno potrà cambiare. Questo è un rischio che corre questo governo fortissimo. Il rischio non è che che non venga rieletto, il rischio non è che perda consensi, il rischio è che ci sia una disaffezione nei confronti della politica per la capacità che la politica ha di deludere sempre le aspettative che hanno i cittadini. Questo è molto più pericoloso dei 250 milioni che non risparmieremo nei prossimi anni. Io sono totalmente d'accordo con Nicola Porro, ma naturalmente, siccome condivido con Nicola Porro l'intento di evitare accuratamente l'antipolitica, questa non è una trasmissione, non è una rete, questo non è un gruppo editoriale, non sono neanch'io modestamente un conduttore da cui sentirete mai pronunciare facili accuse contro la politica, che secondo me deve reimpadronirsi invece del suo legittimo ruolo rispetto a tanti interessi impropri che rappresentano quelli finanziari, le banche eccetera eccetera, un'invadenza molto forte ed evidente, quasi una caratteristica di questa seconda repubblica dopo l'autoribaltamento in cui la politica si concluse nella prima repubblica. E quindi diamo la parola invece a chi ha obiettato a come quel taglio era stato individuato e assunto in finanziaria. E quindi abbiamo con noi, e li ringrazio, Osvaldo Napoli, che è il vicepresidente dell'ANCI ed è anche deputato del PDL. Buongiorno onorevole Napoli. Buongiorno a voi. E poi dopo di lui sentiremo, insieme a lui anche nel dibattito, Davide Zoggia, che è il responsabile enti locali del PD, ex presidente della provincia di Venezia. Buongiorno Zoggia. Buongiorno a voi. Allora, onorevole Napoli, lei che è contemporaneamente presidente della maggioranza e vicepresidente dell'ANCI, noi non abbiamo richiamato Chiamparino perché Chiamparino ci aveva già detto come la pensava e quindi Chiamparino è contento, però vorremmo sapere la sua opinione sul come mai il meccanismo dell'individuazione, poi del rinvio, e dal punto di vista dell'ANCI anche come la pensa, ecco. Vi chiedo scusa, alcune correzioni. Sì. Lei nella sua parte iniziale ha affermato forse nel 2011, mi permetta se la voglio correggere, è nel 2011. Beh, era già nel 2010, no, secondo ma la finanziaria. Una spiegazione. Aspetti. No, aspetti un secondo. Io su queste cose sono di solito preciso. Anch'io. Nel senso che se io dico forse è perché lei capisce che all'indomani di uno slittamento di improvviso. Ma io le do la spiegazione. Allora io le dico forse se e lei non può dirmi che sbaglio. Io prego. Credo che ognuno di noi abbia le sue, come dire, i suoi ragionamenti. Ma non c'è dubbio, però io non le dico che lei sbaglia. No, e di fronte no, a qualcuno che mi dice che sbaglia, io mi metto preciso come un soldatino. Le chiedo molte scuse, io sono uno profondamente rispettoso delle idee degli altri e io non voglio né minimamente controbattere a lei, però voglio fare delle precisazioni facendo un ragionamento. Il ragionamento cos'è? Che arrivo a dirle che per quanto ci riguarda come comuni, tutto questo andrà in vigore nel 2011. Per quale motivo? Perché c'è un ragionamento logico, mi permetta anche il dottor Porro fare una precisazione su questo. Noi avremmo risparmiato non 250 milioni, ma noi avremmo al limite 250 milioni meno 13 milioni, perché nel 2010 e quindi al 2011 andremo in vigore, c'è una spesa, mi scusi, i soldi sono sempre da rispettare, ma c'è una spesa di 13 milioni per questo risparmio. E questa era la quantificazione, per quello io ho detto all'inizio, avevo detto pochi milioni. No, infatti sì. Ho voluto un attimo soltanto, al dottor Porro fare una precisazione, che noi avremmo risparmiato nel 2010 13 milioni di euro. Ed aggiungo, noi avevamo detto sin dall'inizio come comuni che non abbiamo nulla in contrario nella diminuzione dei consiglieri comunali e così via, ma che di farlo nell'ambito della modifica del codice delle autonomie, che a cui bisogna dare atto che il ministro Calderoli sta lavorando intensamente, perché non vi sono dubbi che c'è necessità di modificare tutto il quadro delle riforme degli enti locali. Quindi voglio dire, c'è una situazione che noi non abbiamo detto, anzi, i comuni sono pronti, però io voglio fare una domanda a lei e al dottor Porro. I comuni in tutti questi anni hanno subito governi di centrodestra e di centrosinistra, diminuzioni enormi, anche in parte ben voluti, ci volevano, di trasferimenti, così via, e dare ai comuni l'indipendenza finanziaria attraverso il federalismo. Bene, sono stati gli unici che hanno diminuito, io voglio darvi soltanto dei dati. Bene, le uscite complessive dei comuni è stato un aumento dell'1,97, le uscite correnti per il comparto comunale crescono dello 0,16, mentre le amministrazioni centrali crescono del 6,12, quindi i comuni hanno dato anche sotto questo aspetto, quindi noi desideriamo la diminuzione dei consiglieri e degli assessori nella maniera più assoluta. Diciamo soltanto che nel 2010 vanno a votare, su 8.100 comuni vanno a votare 50 comuni, nel 2011 ci vanno a votare le più grandi città d'Italia, perché c'è il momento in cui Torino per esempio è una di queste. Allora noi abbiamo detto modifichiamo all'interno del codice delle autonomie, però permettetemi che voglio dire una cosa, io devo elogiare anche il governo, perché Calderoli, e questo è un altro dato di fatto che lo dico, io devo apprezzare molto Porro perché mi piace molto anche quando lo vedo estremamente per televisione, sempre pronto questo, però devo dire una cosa Porro, parliamo un attimo che le regioni, e il governo adesso fa un tentativo, sapendo che è un tentativo vuoto, perché la nel dire che i consiglieri regionali devono avere massimo lo stipendio dei consiglieri dei deputati, e poi parliamo anche dei deputati, mi pare che sia un intendimento più che mai da elogiare, perché la verità è una sola. Perché fa un tentativo vuoto? Aspetta, lei ha detto fa un tentativo vuoto. Sì. Perché le regioni faranno ricorso in quanto diranno che lo Stato, che il governo non può intromettersi, esatto, su decisioni. Allora aggiungo, non trovo nessuno che fa delle pagine intere come oggi dei comuni, quando invece non esiste consiglio regionale, non parliamo poi del meridione, io mi chiamo Napoli pur essendo nato a Torino e ho fatto il sindaco per 20 anni in una cittadina di 17.000 abitanti. Ma a me piace infatti da torinese che si senta anche un po' di accento torinese. Lei pensa uno che ha questo accento che si chiama Napoli, no? Io dico fare il sindaco a nord di Torino per uno che si chiama Napoli non è stato facile, lo faccio ancora adesso in un piccolo comune, però detto questo intendo dire non trovo pagine intere di una coscienza morale da parte delle regioni di indipendenza politica nel dire ci diminuiamo lo stipendio, sì, oppure diminuiamo i consigli Napoli, però d'accordo, la prima parte sì, quest'ultima in cui dice le regioni, lei capisce che allora le regioni poi possono dire lo Stato e i comuni, e quindi questo diventa no, poi... però la verità è che si chiede, vede, si impone però, mentre invece la legge prescrive che lo Stato impone ai comuni, e aggiungo anche qua, bene il ministro Calderoli sulle province, perché prima non poteva farlo. Ora sentiremo Lupi. Col 2011, il collega della presidenza della provincia di Venezia lo potrà dire, con il 2011 invece anche le province, se nel 2010 esatto. Non era possibile farlo. Allora io vengo soltanto a dire una cosa, il governo non ha fatto nient'altro che approvare quanto l'ANCI ha chiesto che entrasse in vigore tutto nel 2011. Io però chiedo, con le elezioni più corpose, io però chiedo, ripeto, un impegno da parte dei mass media anche fortemente di una moralizzazione sia a livello romano sia a livello però delle regioni, perché le regioni, lo ripeto, quanto si fa per i comuni, vi chiedo scusa, eventualmente con quei 13 milioni è sufficiente diminuire, scusatemi, un consigliere regionale per regione, uno. Bene. Non dico tanto che onorevole Napoli, noi lo vogliamo diminuire per i consiglieri regionali, per quelli comunali, per quelli provinciali, per le circoscrizioni, per i condomini. Ha capito? Cioè il problema è che secondo me la politica deve capire, io non voglio dare lezioni a nessuno, ma che però insomma l'opinione pubblica, soprattutto quando poi ha dato un voto alle elezioni in cui questo era uno degli obiettivi, se poi gli si dice sì però al momento di farlo è lui e l'altro, ma no, ma questo è poco, eccetera eccetera, dice vabbè, allora, ma perché ci dite sempre che lo fate, se visto che poi non è né utile né necessario, non si risparmiano troppi soldi. Eccoci, siamo tornati in studio per parlare del rinvio ai tagli delle poltrone negli enti locali. Ricordo che anche Francesco Merlo ieri su Repubblica aveva intinto nel veleno la sua penna acuminata dicendo questo governo ha appunto annunziato, sto leggendo il suo articolo di ieri il cui titolo era il bluff delle poltrone tagliate, questo governo, scriveva Merlo, ha appunto annunziato per il secondo anno consecutivo il rinvio di un anno, e fanno dunque due, del dimagrimento degli enti locali più obesi del mondo. Il Consiglio dei Ministri ha già predisposto il decreto legge che contraddice la legge. Insomma, è la strategia di Penelope, ma applicata al contrario. Quella voleva imbrogliare i proci che sono gli scrocconi e i gozzovigliatori della ricchezza pubblica, la ricchezza di Ulisse. Qui invece vogliono imbrogliare Ulisse. Se dunque la legge finanziaria li aveva condannati, oggi il governo li resuscita. Toni molto duri, come si vede. Toni usando i quali alcuni, anche tra coloro che sono in ascolto, mi fanno notare, dice sì, però poi voi avete un bel dire che non volete alimentare l'antipolitica, vi ci mettete anche voi. Me ne rendo conto, mi rendo conto di questo rischio, proprio per questa ragione continuiamo ad ascoltare le diverse opinioni, le diverse constituency della politica che si trovano, sia pure da punti di vista diversi, concordi o discordi su questa posizione, in maniera tale che noi non diamo addosso unilateralmente con quello che Nicola Porro, vice direttore generale, ha detto all'inizio, cosa che io sposo integralmente. Avevamo ancora da ascoltare Davide Zoggia, responsabile enti locali del PD ed ex presidente della provincia di Venezia, e poi ci ha raggiunto Giuseppe Castiglioni, che è il presidente dell'UPI, dell'Unione Provincia Italiana. Io saluto Castiglione che si è aggiunto. Davide Zoggia, dal punto di vista dell'opposizione, qual è il giudizio su questa misura in finanziaria e poi sul ritorno indietro? Ma noi avevamo già criticato l'inserimento all'interno della legge finanziaria della misura, perché ritenevamo e riteniamo che pensare di tagliare esclusivamente i rami bassi, che pure hanno un costo, sia sbagliato. Il tutto va inquadrato nella riforma più complessiva che si sta portando avanti con la Carta delle Autonomie, dove tra l'altro c'è anche una posizione, non dico di totale sintonia, ma insomma di posizioni molto simili tra maggioranza e opposizione, laddove si parla di intervenire anche sui cosiddetti rami alti, nel senso che non si può pensare, come diceva Chiamparino appunto tempo fa, di tagliare esclusivamente consigli comunali, consigli provinciali, che pure hanno un costo, e lasciare il Parlamento e tutto il resto e tutti gli enti, i ministeri interati. Questo che sto dicendo non vuol dire buttare troppa carne al fuoco per poi non far nulla. Lo dico perché solo così è possibile pensare a un reale disboscamento e dimagrimento dell'assetto istituzionale, diciamo, del nostro paese, che oggettivamente è troppo pesante. In più, aggiungo io, molto probabilmente nel momento in cui è stato inserito all'interno della finanziaria quel provvedimento, bisognava, permettetemi questo piccolo accenno polemico politico, ma non voglio assolutamente insomma far polemica, che all'interno della maggioranza ci fosse l'accordo, nel senso che è inutile inserirlo all'interno della finanziaria e poi sapere benissimo che c'è comunque la possibilità di un rinvio, perché non si è trovato sostanzialmente l'intesa. C'è una protesta che sale dai territori, che riguarda sia le amministrazioni di centrosinistra e sia ovviamente le amministrazioni di centrodestra della Lega. Quindi una riforma così importante è una riforma che deve avere una barra, diciamo, di consenso e anche di collaborazione tra le varie forze molto molto forte, altrimenti c'è il rischio dell'annuncio appunto demagogico, che in questo caso ha colpito il centrodestra, ma insomma io ritengo che invece questa riforma vada assolutamente fatta, e lo dico anche da ex presidente della provincia. Insomma, io ho sempre sostenuto l'utilità e la necessità di un ente di coordinamento sovracomunale. Poi quale che sia questo ente, lì sono assolutamente disposto, siamo assolutamente disposti a discutere, insomma, nel senso che non è importante la questione, diciamo, del contenitore, ma è importante comunque che i comuni, soprattutto quelli più piccoli che hanno più difficoltà, possano in qualche maniera essere coordinati, perché come si sa le regioni dovrebbero legiferare, fare le leggi, in realtà ormai assistiamo al fatto che le regioni gestiscono e quindi di fatto si sostituiscono al ruolo che dovrebbero avere gli enti locali, perché se io ho una regione che gestisce con le varie SPA che vengono create, con i vari consigli di amministrazione eccetera, è evidente che tolgo forza e anche motivo d'essere a quelli che sono le, come dire, ruoli degli enti locali, in questo caso comuni e province. Per cui io credo che vada, come dire, fatto un lavoro immediato e serio. Noi siamo disponibili sulla Carta delle Autonomie a farlo, come lo stiamo facendo assieme al centrodestra in maniera molto seria. Discutiamo però anche della diminuzione del numero dei parlamentari, discutiamo della fine del bicameralismo con l'introduzione del Senato delle Regioni, perché questo è assolutamente fondamentale per quanto riguarda anche il funzionamento complessivo del nostro Paese, del nostro Stato. Grazie Zoggia. Zoggia fa un riferimento portato a una linea di riforma e di intervento più complessiva, per così dire. Sentiamo ora l'opinione su questo rinvio, sull'adozione delle misure finanziarie, poi sul rinvio, ma abbiamo sentito, esteso dal 2011 anche alle province, del presidente dell'Unione Provincia Italiana, Giuseppe Castiglione. Dal vostro punto di vista? Ah, buongiorno, intanto buongiorno. Noi abbiamo definita saggia la decisione del ministro, del governo, di rinviare l'attuazione della norma sulla finanziaria, perché ci rendiamo conto, intanto c'è un fatto di natura tecnico, la ridefinizione dei collegi, nel momento in cui c'è una riduzione così significativa dei consigli provinciali vanno ridefiniti, quindi un atto squisitamente tecnico e quindi impossibile per arrivare alla tornata di marzo avere i collegi ridefiniti. Questo è un dato tecnico. Sul piano più politico noi abbiamo sostenuto, abbiamo detto che siamo, le province saranno avanguardia nella riduzione dei costi della politica. Ho fatto un riferimento al congresso, la provincia di Catania ha già ridotto i propri assessori, li ha ridotti a un quinto, quindi già uno nello statuto, in questo ha ridotto i dirigenti, le consulenze esterne, quindi in questo clima noi ci stiamo appieno, noi ci riconosciamo in questa attività del governo. Vorremmo che tutto si ridefinisse, così come diceva Zorge, all'interno di un quadro più unitario. Stiamo discutendo nel Paese di riforme costituzionali. Si parla, il ministro Calderoli ha parlato addirittura di convenzione, quindi ha parlato di bicamerale. Si sta definendo e si sta parlando soprattutto di autonomia locale, di ruoli, compiti tra i diversi livelli di governo. Per la prima volta si definiscono i ruoli e le funzioni dei comuni, delle province, delle regioni. È di assoluta evidenza in questo dibattito approfondito che c'è stato anche nelle aule parlamentari. Ricordo che coloro che avevano proposto il disegno di legge di abolizione poi addirittura in commissione in Parlamento non sono nemmeno intervenuti, non hanno partecipato al colloquio, al dibattito, perché noi amiamo il confronto, amiamo confrontarci al di là della posizione che può sembrare affascinante sul piano della comunicazione politica, però poi ci sono dei problemi reali. I 14 miliardi investiti dalle province sono tutte là. Se oggi c'è un sondaggio del Sole 24 Ore che colloca tutti gli amministratori delle province sopra il 50%, in molti casi c'è un riferimento espresso alla gente, la provincia ha un ruolo, ha una definizione, ha un contatto con la gente, esprime livelli di governo accettabili, si occupa di questioni importanti, quindi non sto qua a definirle, però c'è un capitolo molto importante che è quello della Carta delle Autonomie, mi pare il luogo più idoneo per definire il ruolo e le funzioni dei comuni, delle province, delle regione. Quindi noi abbiamo definito questa soluzione una soluzione saggia e devo dire il ministro Calderoli appena insediato mi ha chiamato manifestando la piena disponibilità ad un confronto. Noi abbiamo c'era un patto con il Presidente, ma con la Presidente Presidenza dell'UPI di condivisione anche in linea teorica ma anche concreta della riduzione del numero dei consiglieri provinciali, ci eravamo attestati sul 20%, lo confermiamo, c'è la nostra disponibilità, così come c'è la disponibilità alla riduzione degli amministratori. Quindi questa è una decisione da un lato tecnico, dall'altro lato anche, se vogliamo, anche più politica, però nessuno vuole differire, nessuno vuole sottrarsi, noi abbiamo una dignità costituzionale prevista nella Costituzione. Benissimo. Istituzionale, quindi confronto, certamente non ci tiriamo indietro. Grazie. Quando grazie si parla di riduzione di costi della politica. Grazie Presidente, nessuno potrà dire che non abbiamo giustamente dato voce a chi ci fa riflettere sui nodi che era meglio lasciare a una soluzione più organica, più equilibrata, più concertata, e quindi meglio l'anno prossimo. Diamo voce ai nostri ascoltatori, poi commentiamo insieme a Nicola Porro e ai nostri ospiti. Iniziamo con Luigi da Roma. Prego Luigi. Ah, buongiorno. Io sentivo dire da ragazzino che di buona intenzione è la stricata via dell'inferno, quindi un rispettoso scetticismo sull'attuazione in futuro credo sia lecito nutrirlo. Credo che però se si guarda la rischiosità complessiva del sistema e la sua scarsa capacità di incidere, si pensa in materia di concorrenza, si comprende che è la autoreferenzialità della politica che giustifica tutto questo. E allora credo che il non voto non sia una scelta da condannare. Tutto qua. Ah, ecco, quindi insomma un po' di ragionato scetticismo. Giovanni da Torino, come la pensa Giovanni da Torino? buongiorno anzitutto. Ma io penso che i nostri politici in generale, insomma, anche se non si deve correre il rischio poi di generalizzare troppo, conoscono molto bene il loro prodotto, nel senso che conoscono bene la maggioranza degli italiani, quindi sanno che accettano tutto sommato queste putate, perché per quanto mi riguarda questo sono, perché le sento ripetere da decenni. Ah, questo è interessante, cioè lei è dell'opinione che in realtà i politici giustamente si permettano un margine nell'annuncio e nel rinvio della politica annuncia, perché ci conoscono molto bene, cioè sanno che in definitiva poi noi non cambiamo la nostra scelta politica. Questo in realtà è più testimoniato, quello che dice lei, dalla continuità degli andamenti delle elezioni rispetto poi al fatto che sono alcuni milioni di elettori marginali a fare la differenza pro gli uni o pro gli altri da 15 anni a questa parte. Però vi invito a riflettere, perché secondo me Giovanni ha più ragione che torto. Prego, l'ho interrotta. No, ma guardi, era questo, diciamo, il mio pensiero. E dopodiché è ovvio che quando si vanno a mettere le mani in questi fatti, no, e questo delle province, degli enti locali, bla bla bla bla bla bla, è un insieme di interessi enormi che vanno al di là del risparmio. E allora dico, senza voler, non conosco la persona, quindi chiedo scusa a prescindere, ma uno dei suoi ospiti di fatto fa il parlamentare, il presidente di non ho capito quale commissione, vicepresidente di un'associazione e sindaco di un piccolo comune della cintura nord torinese. Complimenti, io francamente faccio fatica a fare il mio lavoro. E vabbè, adesso lei si sta riferendo all'onorevole Osvaldo Napoli, vicepresidente dell'ANCI di PDL, prendo la battuta, ma non essendo più collegato mi tocca difenderlo per dovere di ospitalità, naturalmente. Capisco il senso della sua battuta. Se ci fosse collegato l'onorevole Napoli, lo inviterei a riflettere in effetti su questo. Una brevissima ancora opinione da Marco, la provincia di Monza. Prego Marco. Sì, buongiorno, grazie per l'ospitalità. L'Italia, sappiamo dalle cronache che durano da tantissimo tempo, che è una repubblica fondata sempre di più sul ricatto e sul segreto e sempre meno sul lavoro. Cosa voglio dire con questo? Che questi enti servono fondamentalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, a far sì che si possano parcheggiare persone, personaggi, che sono custodi di segreti addirittura, di varia natura, e per far sì che questi non parlino e che quindi si proteggano gli uni con gli altri, gli si garantisce una bella poltrona, un autostipendio, possono essere geometri che hanno concesso di edificare. Va bene Marco, comuni. Però la teoria secondo cui siamo nelle mani del silenzio per evitare il complotto più ampio, io rispetto tutto, però rispetto a diminuirne o meno i posti, non so, allora chiamiamo Dan Brown per farcela spiegare, lo dico con rispetto anche della posizione di Marco. Eccoci tornati in studio sui tagli assunti in finanziaria, poi ieri rinviati alle poltrone, usiamo un termine un pochino caustico, negli enti locali. Abbiamo ancora Davide da Varese. Prego Davide, come la pensa? Davide da Varese, mi pare di capire. Eccoci. Buongiorno dottor Giannino. Sì. Sì, io sono completamente d'accordo sul fatto che la politica dovrebbe fare un passo indietro su una riforma però complessiva, quindi secondo me il dimezzamento dei parlamentari, il superamento del bicameralismo perfetto innanzitutto, tutti gli enti inutili e poi, ma secondo me anche proprio gli enti locali, ci sono dei comuni che sono veramente piccoli, i quali potrebbero senza difficoltà essere come dire annessi ai comuni vicini. Se ogni comune piccolo si fondesse con un comune vicino avremmo il dimezzamento di tutti i comuni italiani. Io mi rendo conto che nella patria del campanile questo può essere visto in maniera non troppo favorevole, però credo che sarebbe già un primo passo, ovviamente non risolutivo. Grazie. Grazie Davide. Naturalmente io invito anche Davide, chi la pensa come Davide, a riflettere su un fatto, lo dico non polemicamente. Quando si inizia il ragionamento dicendo, naturalmente nell'ambito di un quadro in cui diminuiamo i parlamentari della metà eccetera eccetera, accorpiamo i comuni e così via, che è logica per così dire, se la si pensa in un certo modo, inevitabilmente si presta anche il fianco, si dà un argomento a chi dice bene, e allora facciamolo il giorno in cui però iniziamo a modificare la Costituzione, il bicameralismo perfetto, il numero di parlamentari eccetera eccetera, e a scendere nello stesso contesto assumiamo provvedimenti analoghi o in questa direzione che riguardano anche l'autonomia. Ma in caso contrario, finché non fate quello, non facciamo neanche quest'altro. Quindi, come sempre, poi si presta il fianco a delle obiezioni profonde. Un'ultima riflessione e poi un giro rapido di opinioni. Abbiamo collegato con noi Alessandro Barbetta, il difensore civico di Milano, che invece lui, sotto la scura e col suo ufficio, ci è finito subito, mi pare di capire, dottor Barbetta. Voi praticamente chiudete o ho capito male? Buongiorno intanto a tutti gli ascoltatori. Il problema è in questi termini. Il giorno 30 di dicembre, quando è stata pubblicata in Gazzetta la finanziaria, mi è stata mandata una nota esplicativa degli effetti che aveva questa legge, firmata dal sindaco e dal presidente del Consiglio Comunale, intendendo che con l'entrata in vigore della finanziaria cessasse la difesa civica. In realtà la questione non è in questi termini, nel senso che la soppressione può essere fatta soltanto dal Consiglio Comunale, e quindi quella comunicazione io l'ho ritenuta del tutto irrilevante sotto il profilo dell'interruzione della mia attività. Ho informato sindaco e presidente del Consiglio Comunale che avrei continuato a essere presente per svolgere gli ordinari compiti di istituto, e ho chiesto il ripristino delle condizioni operative che c'erano al 31 dicembre. Ho richiesto questo perché alla lettera che io ho ricevuto è seguita una serie di disposizioni dei dirigenti, e cioè rescissione del contratto individuale di lavoro del direttore dell'ufficio, trasferimento del personale e blocco dell'utilizzo delle risorse finanziarie. Quindi le hanno smontato praticamente l'ufficio di difensore civico, il personale ha detto. Ma ora che qualcuno debba decidere sulla sorte del difensore civico e che non lo debba essere il difensore civico stesso è più che ovvio. In realtà l'organo che può fare questo è il Consiglio Comunale, perché la soppressione della figura, come dice la finanziaria, non può essere derivata che da una modifica dello statuto comunale che prevede l'esistenza. E che non c'è stato. E che non c'è stata. E quindi io insisto in questa tesi che sede competente... Diciamo la verità, lei stava sulle scatole qualcuno, perché visto che qui i consiglieri comunali non si tagliano, c'è il rinvio, nel frattempo si chiude seduta stante l'ufficio del difensore civico di Milano, ho questa impressione. Naturalmente siamo in assenza della controparte, non la voglio mettere in difficoltà nei confronti del consiglio comunale, della maggioranza. No, io dico semplicemente che c'è stato così un abbaglio nell'interpretazione della cosa. E il fatto rilevante è che invece di sopprimere la figura del difensore civico e di conseguenza dedicare le risorse che erano qui impiegate da un'altra parte, si è agito capovolgendo l'operazione. Ecco, anche a me interessava... Da questo punto di vista, io ritengo che questo sia assolutamente illegittimo, l'ho fatto presente, ho motivato, eccetera, eccetera. Ecco, noi naturalmente, aspetti un secondo, noi siamo a favore adesso del prosieguo delle impugnative sulla legittimità e così via, ma il caso del difensore civico di Milano dimostra come la classe politica, perdonatemi, non, in questo momento io non mi interessa ricordare il nome del sindaco, dell'assessore, quando vuole, il 30, il 31, in poche ore dall'approvazione della finanziaria, interviene, scioglie, dispone, rescinde contratti e così via, evidentemente ritenendo che lì ci sia una buona ragione. Io non voglio entrare neanche nel merito, auguri naturalmente al difensore civico di Milano sulle sue impugnative in ordine alla legittimità, ma la questione è che il difensore civico di Milano dimostra che quando la politica è convinta non fa passare se non ore, secondi. Ecco, invece altrimenti abbiamo sentito in tutto il corso della puntata come argomenta sulla necessità di riflettere, ragionare, concertare, così via. Risultato, annuncio e dilazione. Torniamo a Nicola Porro. Qual è l'opinione sentiti tutti i politici della destra come della sinistra, dell'ANCI come dell'UPI, della maggioranza nazionale e contemporaneamente anche nelle associazioni, che ti sei fatto come punto finale della vicenda? Oscar, mi spiace essere tranchant, ma ci prendono per i fondelli, perché quando io mi sento dire, mi spiace per Napoli che di cui ho massima stima, ma quando mi sento dire che bisogna inserire, che questa sostanzialmente è soltanto una proroghetta di un anno e poi fra un anno si farà, ma mi sento anche dire che non si può fare una riforma degli enti locali se non si fa il Senato delle Regioni, allora ho capito perfettamente quello che avevo capito anche ieri, e cioè che questi tagli di anno in anno non si faranno. Ma a me poi non interessa tanto che si tolgano 10, 20, 30 mila, parte che mi interessa, posizioni negli enti locali, e poi in questi enti locali molti di questi hanno stipendi ridicoli, diciamo anche la verità su questo, perché non tutti hanno questi stipendi da nababbo. Quello che mi interessa è che se la politica, come abbiamo sentito in questa trasmissione, ha questa incapacità di capire dove cavolo e come cavolo vive la gente e in che situazione si trova, e che se ne frega delle procedure, perché non è possibile sentirsi dire che oggi un problema è di procedura. Il problema oggi è che in un'azienda normale le procedure se ne fregano, perché se non hanno le commesse, non hanno il fatturato, i propri dipendenti, i propri lavoratori se ne vanno a casa, e quando quello che si è andato a casa si sente dire che la procedura per la CIG impiega 9 mesi perché il consiglio comunale o il consiglio provinciale, il consiglio regionale, l'ispettorato del lavoro o chi che sia c'ha altro da fare, bene, siamo su una bomba inesplosa, Oscar, scusami l'innervosismo, ma è quello che io mi sento dire, quello che mi sento ogni giorno, e sentirei tu leggere quando parli con le persone normali. Cioè, non la casta, che è un nome orrendo e però che identifica i professionisti della politica bene, ma c'è l'incapacità di capire che si sta giocando col fuoco. Non sono i 220 milioni, non 13 di un anno, sono 220 milioni in 3 anni, quindi può strizzare i numeri come gli pare, però sono 220 milioni in 3 anni. Qua si gioca col fuoco. A me delle procedure poco. Se noi dobbiamo dire che dobbiamo aspettare il Senato federale, che c'è sempre qualche altro di meglio da fare, finiamo male. Qua il punto è che entriamo in un ristorante, abbiamo 100 camerieri, li paghiamo tantissimo, gli diamo pure la mancia e mangiamo malissimo. Questa è la situazione in cui ci troviamo. Prima o poi non si entra più in quel ristorante, oppure si fa qualche cosa per evitare che quei camerieri continuino a servirci. Una rapida chiamata, abbiamo Antonio dalla provincia di Roma? No, pronto? Non sono Antonio dalla provincia di Roma, sono Antonio Cicchetti, consigliere regionale del Lazio. Ho capito, noi presentiamo tutti, aspetti un secondo, mica le mancavo di rispetto nel non dare il titolo, presentiamo tutti solo con il nome, perché io non so chi vuole essere rispettato nell'anonimato oppure meno, tutto qua, quindi prego consigliere Cicchetti. Guardi, io sono perfettamente d'accordo con Nicola Porro, qui ogni volta che si solleva il problema della riduzione, che sia del numero dei componenti di un organo collegiale, che sia dello stipendio, c'è una sorta di interdizione sotterranea e strisciante che tende a raggiungere l'obiettivo di lasciare tutto così com'è, perché fa comodo lasciare tutto così com'è. Io, per aver inviato lo statino del mio stipendio a Panorama, ho ricevuto i rimbrotti di tutto il Consiglio regionale. Naturalmente non si dice ad alta voce, ma nei corridoi c'era gente che non mi salutava più, perché si vergognano che si sappia quello che prendono e non hanno il coraggio di difendere quello che prendono. Quindi il problema è piuttosto grave dal punto di vista politico e morale. Io credo che non si arriverà a breve a nessuna soluzione, proprio perché ormai è occupato lo Stato italiano, e questo aggrava non soltanto le casse dello Stato italiano, ma anche la procedura, i processi decisori, che sono appesantiti da numerosi interventi e da numerosi livelli di decisione, e quindi non si risolve mai nulla, proprio perché c'è questo appesantimento. Va bene, abbiamo avuto anche una telefonata di un consigliere regionale, Cicchetti, dal Lazio, che ci dice: oh, io sono favorevole, anzi mi tirano le orecchie quando tento di dire addirittura quanti siamo e quanti guadagniamo. Allora, è stata una puntata un pochino forte. In effetti io, come avrete capito, non riesco a farmi una ragione del fatto che la politica annunci e poi rinvii. Questa la considero una delle ragioni per le quali, quando vado a vedere io personalmente quanto pago di tasse, la mia partita io ho le mie due società e mi vedo sempre non rinviate invece le scadenze a cui lo Stato mi chiedo perché non si debba adottare nei confronti miei e di tutti i contribuenti italiani la stessa legittima dilazione che lo Stato si dà sempre quando riguarda i soldi dei politici. Allora, facciamo la reciprocità? No, non la facciamo perché noi dobbiamo pagarle e allora però non può essere a senso unico, solo per la politica. Puntata un po' dura oggi, mi scuso, ma comunque io dopo aver ringraziato Paolo Corleone in regia e Alessandro Marcotulli in redazione e dalla linea Giornale Radio vi do appuntamento naturalmente a domani.